Rockway, l'onda del rock. Buona serata amici di Blu Radio Veneto, Francesco Galante insieme a voi, ma con noi questa sera abbiamo anche Maurizio Calzavara, al quale do il benvenuto. Buonasera Francesco, buonasera ai nostri ascoltatori. Ecco, questa sera abbiamo l'opportunità di far sentire una band, molto, sono molto bravi, poi sono insomma delle nostre parti, bene o male, non si sono spostati di molto perché siete di Udine, vero? Mm-hmm. Ecco. Buonasera. E allora presentiamo ufficialmente i The Charlestons, che sono con noi questa sera per presentare il loro lavoro, un album che si intitola Out from the Blue. Esattamente, vengono chiaramente da Tolmezzo, quindi vicino a Udine, chiaramente. Sì, ecco, allora vi chiederei di avvicinarvi un pochettino di più ai microfoni, perché noi siamo un po' sordi. No, e voglio salutare allora i componenti della band The Charleston che sono qua con noi, che insomma voi siete in quattro, ed è Mattia Bonanni alla voce e alla chitarra. Ciao Mattia. Ciao, ciao. Poi abbiamo Matteo Peresson, chitarra e basso. Ciao, buonasera. E poi abbiamo Gianmarco Crevatin. Ciao, ciao Fiori, ciao. Tu sei alla chitarra. E poi abbiamo la batteria di Federico Pellizzali. Sì, ciao, ciao. Ecco, abbiamo fatto quindi le dovute presentazioni. Allora, Maurizio, abbiamo un'ora per trascorrere così amichevolmente, presentare questo album Out from the Blue dei Charleston. Faremo ascoltare dei pezzi dal loro CD e poi parleremo insomma del CD in particolare, e poi ascolteremo anche qualche cosa dal vivo con Mattia, che voce e chitarra farà praticamente una solo, si prende il compito e l'onore e il dovere anche di rappresentare l'intera band con la voce e la sua chitarra, vero? Mi raccomando, certo. Mattia. Ecco, quindi hai un ingrato compito. Se sbagli, se sbagli fa credere. Non a mano. Una cosa dobbiamo sottolineare: sono quattro ragazzi giovanissimi, Francesco. Hanno l'età media di 22 anni, quindi io ho l'età doppia della loro. L'ultima. Quindi sono ragazzi giovanissimi. Una cosa importante: questo vento carnico porta un vento di musica inglese, Britpop inglese praticamente. Come mai questo vento inglese nella vostra musica? Ma è stato scritto più volte che la carne insomma ci assomiglia un po' all'Inghilterra, per via del tempo, insomma le solite cose. E vabbè, insomma, alla fine è una passione che ci portiamo dietro da tanto tempo, in realtà. Cioè, abbiamo sempre ascoltato questa musica inglese. Dal momento in cui l'abbiamo conosciuta non ci siamo mai stufati di ascoltarla, insomma, per cui era inevitabile che arrivassimo a fare una cosa del genere. Certo, perché sentendo il vostro disco uno potrebbe dire: questi vengono direttamente dall'Inghilterra. Assolutamente. Abbiamo assorbito un sacco di sonorità e di, sì, per cui il lavoro è venuto fuori così. Com'è nata l'idea di fare una band praticamente? Dove è nata? Nei banchi di scuola probabilmente, o no? Il fondatore è Matteo. Sì, va, ci siamo conosciuti a scuola, al liceo, eravamo assieme io e Mattia, e poi si sono aggregati anche gli altri con gli anni. Con gli anni. Il batterista è stato l'ultimo? No, visto che è più giovane. Però ho dovuto lasciare per il mio gruppo metal in cui sono. Ah, avevi un gruppo metal? No. L'abbiamo salvato, sì. Ah, l'avete salvato. Sì, praticamente l'idea è nata da lui, praticamente. È stata da te. A lui piace prendersi il merito. Sì, una cosa giusta, è bello il merito. Ah, vabbè, chiaro. Sì. Francesco, quasi tutte le band nascono dai licei o dalle scuole superiori, cosa dici? Al 90%. Pare di sì, ma insomma. Anche dei garage qualche volta. Ma d'altronde le passioni uno o le coltiva da giovane, o poi ora che aspetti la pensione, hai voglia. Sì. Forse non la prenderemo mai noi la pensione. Quindi. Speriamo di sì. Quindi o uno le passioni le coltiva quando è giovane, oppure le mette via e per un domani che non si sa quando sarà. Quindi è vero, in realtà nascono così, insomma, un po' per caso, forse per l'amicizia, per la voglia di stare insieme, magari di beccare anche qualche ragazza imparando a suonare la chitarra, soprattutto, che è un classico, e poi funziona. Abbiamo iniziato per quello. Funziona. Per quello avete iniziato. Vabbè. Avete uno seguito. Avevamo tutto in mente prima ancora di imparare a suonare i vari strumenti. Insomma, sapevamo già cosa volevamo fare, dove volevamo arrivare, perché ragazze dovevamo Quali? Sì, tutto. Ma arrivare a incidere un album è importante, significativo. Sì. Momento, questo è il secondo disco, praticamente il primo era un EP, il primo 5 era pezzi. Un EP, sì. E dove l'avete inciso? A Tolmezzo, sempre una casa di... L'abbiamo inciso a Udine. A Udine, per un'etichetta. Negli studi Moscow, sì. Studi Moscow. E da lì poi è nata la collaborazione, insomma... Cioè, beh, è stato un caso, mi diceva, a microfono spento, che avete inciso. È stato un abbiamo caso, sentito sì. per caso. Avevamo i primi 5 pezzi che avevamo fatto, insomma, 5 dei primi 8, non so quanti fossero. E niente, cercavamo un posto poterli registrare. Abbiamo scelto lo studio Moscow per... Non mi ricordo neanche perché, insomma. Cioè, abbiamo un visto caso. Che c'era, ci siamo andati, era Udine, e abbiamo fatto 2 settimane lì, abbiamo registrato l'EP, poi da lì è nata la collaborazione, poi per il disco. Poi vi hanno sentito, vi hanno chiamato, sì, e quindi avete inciso con loro. Abbiamo inciso con loro. È una bella collaborazione. È una bella soddisfazione, sì. Esattamente. Allora diciamo subito il sito, che è www.moscowlab.it, per l'etichetta, insomma, che produce il vostro lavoro, e poi, dato che ci siamo, parliamo subito di internet, così se qualcuno vuole venirvi a conoscere da vicino, cosa deve fare? Sono i soliti portali, i soliti indirizzi. Vabbè, diciamoli. C'è perché... il nostro profilo su Facebook, e c'è il profilo su MySpace, e poi Bandcamp, Twitter. C'è la possibilità, insomma, ma in dei conti basta scrivere The Charleston su Google e si trova tutto. Su Google It, penso. Su Google It, sì. Su Google.com. Su Google.com funziona meglio, credo. Ah, sì? Sì. Va bene, va bene. The Charleston, allora, abbiamo già parlato troppo. Io, Maurizio, dico che è meglio sempre dare spazio alla musica. Facciamo un primo pezzo da CD? Mm-hmm. Ecco, quindi andiamo allora a sentire la prima traccia che abbiamo pensato di far ascoltare, che è la traccia numero 4. Come si intitola? Si intitola West for a Carry On. È il nostro primo singolo. È stato singolo della settimana su iTunes Italia a settembre, a una settimana dall'uscita, insomma. E è il primo singolo estratto dal disco. Uscirà il video tra pochi giorni. Ecco, allora lo ascoltiamo e poi magari parliamo proprio del video. Rockway, l'onda del rock. Yeah. Rockwave, l'onda del rock. Eccoci qua, abbiamo ascoltato quindi la prima traccia, una delle prime tracce, perché poi in realtà è la quarta traccia del CD Out from the Blue dei The Charlestons, si intitolava West for Carillon. E allora, questo è stato il vostro primo singolo e mi hai detto che uscirà a breve il video, il no? Il video, sì. Bella esperienza. Entro pochi giorni, insomma, la prossima settimana o quella dopo, credo, non c'è una data ufficiale ancora, non abbiamo ancora la versione definitiva, però abbiamo già avuto modo di vedere un'anteprima e è riuscito bene. Sì, ma quindi vuol dire che se la casa discografica punta nel produrre un video, vuol dire che insomma avete già dei buoni riscontri. Ma no? Si parte da una canzone che cioè fin da subito comunque ha avuto dei riconoscimenti e dei riconoscimenti anche su scala abbastanza larga, per cui insomma era un buon investimento, insomma, metterci un video che fosse all'altezza della canzone, insomma. E temevo, cioè ero preoccupato sul video che c'era da fare, insomma, perché sapevo che da un lato la canzone poteva arrivare a tanti, volevo che il video fosse all'altezza e che anzi aggiungesse un po' di valore alla canzone. Beh, certo, se poi il video è fatto bene, quello potrebbe essere veramente un punto di partenza molto forte anche per farsi conoscere, insomma, in maniera determinante in tutta Italia. Ma no? Sì, per l'immagine, per tutto l'immaginario. Come l'avete, dove l'avete girato? Cosa avete fatto? L'abbiamo girato giù in pianura, in Friuli, in un lungo viale alberato, quindi sì, all'aperto, insomma. E vabbè, ci spostiamo in vari modi su questo viale, c'è una mini trama, insomma, alle spalle, ma è un video abbastanza, cioè in fin dei conti abbastanza autobiografico, insomma. Okay. Ci siamo noi che camminiamo, che boh, però alla fine è abbastanza è semplice, indicativo, ma però del nostro immaginario. Sì, era quello, cioè, che volevamo fare, volevamo fare una cosa non tanto pretenziosa quanto far vedere, insomma, chi siete, cosa sì, e come siamo. Ecco. Bom, ho capito. Maurizio. Sì, musicalmente un pezzo, mentre il pezzo andava, noi parlavamo con Mattia, lo aggredisci il pezzo, non lasci neppure il tempo che la chitarra che intervenga, lo aggredisci. Sì, è un po' la tendenza di tutti i pezzi, credo, del disco, che non c'è mai, cioè c'è poco spazio dedicato agli strumenti da esatto. soli. C'è più la voce c'è, è preponderante, sempre, sì. Esattamente. Credo sia un modo di scrivere, insomma, non ci avevo mai pensato alla fine, e come in realtà ci ho sempre pensato, però in realtà me l'hai fatto notare tu ora. No, è vero, è vero. E come è stato costruito il pezzo? Tu hai scritto gli accordi, poi gli altri ragazzi l'hanno sentito, vi siete messi d'accordo, gli arrangiamenti, come è nato l'arrangiamento? Il pezzo è nato un po' cioè, dico a caso, nel senso che è uscito di colpo, così, è uscito dal nulla. Come titolo al disco, sì. Titolo al disco, esatto. L'ho scritto poco dopo aver registrato l'EP, sullo slancio, sì, insomma, della cosa. E no, niente, sì, avevo scritto la canzone e così in quei secondi in cui l'ho scritta, ovviamente non c'era la versione definitiva del pezzo che ascoltiamo adesso, e infatti dopo averla fatta avevo subito chiamato gli altri per provare, perché avevo intuito che ci fosse qualcosa di buono, insomma, dietro. Poi in realtà ho detto, boh, calma, aspettiamo, perché secondo me c'è quel riff iniziale, quel giro di accordi iniziale valeva, insomma. Ho detto, boh, prendiamoci un po' di calma e rendiamolo una bomba, insomma. Sì, calma, sì, ma però l'idea, Francesco, quando si prende bisogna prenderla immediatamente. Chiaro, quando viene chiamo, fuori, immediatamente, se no si perde, No, chiaro, sì. Chiaramente. Okay. Ecco, sono passati ancora un po' di minuti, quindi io direi che a questo punto Mattia, ti sei scaldato la voce in qualche modo. Ho parlando bevuto un tè, con sì. noi, sì, hai bevuto il tè, allora è il caso che andiamo a sentire il primo pezzo che ci farai dal vivo. Raccontaci un po' che cosa ci fai sentire. Va, è il primo pezzo del disco anche, ed è credo il primo pezzo di cui sono stato veramente soddisfatto. Si intitola Yesterday Remorse. Si intitola Yesterday Remorse. È stata credo la mia prima canzone di cui sono stato veramente contento, da cui poi sono arrivate poi le altre. Ah, va bene, allora insomma è un inizio, no? Sì. Quindi sentiamo allora questo inizio, okay. Voce e chitarra, The Charleston con noi a Blu Radio Veneto. don't know if you still love me. You do and you don't look back. But I'm just gonna messing up about where I feel your love. I don't know if you still call me dude and you don't look back. But I'm just gonna make a mess into the fragileness of your old lions. No, I don't know, I don't know. Yesterday, I don't know, I don't believe yesterday. Well, I don't know if you still hold me, dude, and you don't look back. But Rams made me be so proud of the way I feel your love. Oh, I don't know, I don't. I don't know, I don't believe yesterday, cause I'm trying. Yes, I try to keep you all inside and more than this. Trying, yes, I will try. I don't know, I don't believe yesterday. I don't know, I don't believe yesterday, cause I'm trying. Yes, I try to keep you all inside more than this. Trying, yes, I will. I will try. Oh, I don't know why. I will try. Well, I don't know why. Bene, complimenti. Grazie. Allora, abbiamo sentito questa canzone dal vivo con chitarra e voce, Mattia Bonanni dei Charleston. Abbiamo ovviamente tutta la band che è venuta a trovarci, anche perché poi, se non sbaglio, questa sera andrete a suonare in un locale, ma poi parleremo anche delle prossime date, no? che farete e se ne avete in programma. Penso che poi queste cose nel sito uno le trova poi. Sì, lo aggiornate? Sì. Ecco, è una cosa importante. Se non lo fanno i ragazzi giovani di aggiornare i siti, chi lo deve fare? Non noi che siamo vecchi. No, io, parla per te. Parla. Volevo sottolineare una cosa, Mattia. Tu canti in falsetto in alcuni momenti. A me il falsetto piace particolarmente, però c'è sempre difficoltà a cantare in falsetto. O è spontaneo per te? Ho la tendenza a scrivere sempre abbastanza alto, no? Ho capito. E di conseguenza, cioè, quando non sono accompagnato da volume, cioè dal gruppo, certo. Mi viene da, cioè, come se fosse un modo un po' più delicato insomma, per fare, okay. Cioè, di non urlare, no? Quindi è naturale in ogni caso, sì. Il falsetto, ma è molto simpatico. Ma è una cosa che faccio quando suono da solo, in realtà. È molto bello, molto simpatico. A me piace particolarmente. Sì. E tu hai detto, quando vi accompagna il gruppo stasera, siamo in dimensione assolutamente acustica, ma quando ti accompagna il gruppo, come lo fate questo pezzo? Molto tirato oppure accattivante com'è questo, praticamente? Sì, sarebbe da ascoltare la versione del disco, ma in realtà ma si cambia sempre, la versione del disco. È sempre un po' strano, no? Interpretare una canzone fin dall'inizio, fino a quando la scrivi, alla fine. Ma dopo farò una canzone che ho scritto pochi giorni fa, insomma, che abbiamo provato ieri sera, tra l'altro. Ah, quindi una new entry assoluta, praticamente. A fare, sì. E sono quelle cose che, cioè, tu parti, la fai in un modo e ti rendi conto che boh, dipende, insomma, ci sono canzoni che le fai e capisci che, insomma, qual è la direzione da prendere. Una canzone che deve essere accattivante, che deve essere ritmata, o una canzone lenta, insomma. Poi ci sono delle canzoni via di mezzo, insomma, su cui ogni tanto si perde più tempo, magari perché bisogna trovare il modo giusto per ecco, interpretarla. No, forse Maurizio anche intendeva, siccome spesso no, vengono delle band che hanno un lavoro che è quello dei CD, ma poi quando vanno a suonare dal vivo in qualche pub o teatro, sì, insomma, posto che dir si voglia, modificano leggermente la canzone perché in quel caso manca okay, ovviamente l'apporto del computer, tutto quello che ci può star dietro nella costruzione di un CD. Ok, ma in realtà noi facciamo le canzoni pari pari. Quindi le nostre sono abbastanza fedeli, insomma, anche live, dico, cioè questa qua per esempio cambia davvero solo dalla parte ritmica, insomma, se aggiunge la chitarra, si ritornelli, insomma, c'è poca differenza, c'è poca differenza, sì. Okay, cioè le canzoni sono comunque costruite su acustica, per cui quasi tutte. Benissimo. Ho letto nelle tue biografie che l'hai scritta tra l'Italia e Parigi, alcuni pezzi, visto che sei d'origine francese, tu sei nato a Parigi, chiaramente. Dici di Made in Paris, Mattia, ecco. dici di Made in Paris. Sì, cioè sono canzoni, insomma, che ho fatto in un determinato periodo, non so, di... Un po' di anni, insomma. Un anno particolare, insomma, in cui mi capitava spesso di andare a Parigi, quindi, sì, e quindi di passare del tempo scritto, là. Sì, e quindi tornavo e tutto quello che avevo immagazzinato là, insomma, cercavo di farlo venire fuori così. Bene, il disco è molto piacevole, accattivante, è un disco pop, tra virgolette, quel pop con la P maiuscola, secondo me. Beh, è quello che volevamo fare in realtà, perché alla fine, cioè, capita veramente raramente di trovare dei... Cioè, almeno io non so, ultimamente interessandomi così di più magari alla scena anche italiana, no? Certo. Di trovare, cioè, una ricerca da quel punto di vista lì, perché alla fine pop non è una bestemmia, no, cioè è una cioè secondo me è un modo di essere, cioè riuscire a costruire qualcosa che piaccia, esatto, a più gente possibile. E pop in realtà può significare intuitivo, può significare anche bestemmia, ma no, la miglior musica, insomma. Sì, cucina. Però in realtà riuscire a concentrare l'attenzione su quella parola lì e dire ok, facciamo qualcosa che possa piacere e non qualcosa di sempre per forza, cioè ricercato, ma nel suo modo. Sì, ma pop vuol dire popular, quindi popolare, insomma, in genere, sì, allargando il discorso. Popolare, sì. Esattamente, questo. Quindi poi alla fine volevo fare una cosa del genere, sì. Ok. Che piaccia al popolo, esatto, sì, che arrivi in casa, che ti ascolti, insomma, in casa, non qualcosa di troppo complicato. Sì, o di... sì. Siamo stufi, ecco, della scena alternativa italiana, della indie, sì, al 100%. Siamo stufi, è terribile, insomma. Secondo me non vi è niente di decente fuori, a parte gli Hacienda, forse, che sono un gruppo che ci piace, e New Candies, che sono, insomma, un'altra band, insomma, che almeno io apprezzo. Okay. Italiana, cioè faccio fatica, ecco, a trovare dei dischi che suonino bene come suonano i dischi prodotti a New York o Londra o Sheffield. Però il nostro, insomma, ha quel... Beh, dobbiamo accontentarci delle patrie nostre, praticamente. Sì, no, ma nel senso, ma sì, è più il modo di fare, sì, l'attitudine forse che manca, sì. Ecco. Certo, ho capito, sì, chiaro. Va bene, allora andiamo a sentire un'altra traccia dal disco. Adesso io ho la traccia numero 2, che è Thinking at the Bar. Sì. Vuoi dire qualcosa? Volete dire qualcosa su questo brano in particolare prima di ascoltarlo? Finché la stavo pensando ai momenti in cui... a quando è venuta fuori. Ma no, è particolarmente riuscita, secondo me... sul disco. Vabbè, e allora andiamo sul disco. Non sì, è una canzone teorica di quelle che sul disco vengono bene, poi è anche la e soprattutto live. soprattutto live. Va bene, allora ce l'andiamo subito a sentire. Rockwave, l'onda del rock. I was thinking about today that I've got no hate. No reasons for the old or young or just the same. I was thinking about today, but I've always thought the same. That the only time to leave is slipping back through all these questions that I've made. I was thinking about today, all light can terrain, all those prospective views are full of brand new moves. At the birds today, but I've always felt the same. That the only time to leave is sleeping back again. And so please sit down, you're in a storm. We'll let you down, stop thinking of you. Have to take your time to hesitate. We're lost of train is thinking of you too. I was thinking about today, about you lady. I can't see what I've lost, but I cannot learn it. I was thinking about today, but I've always felt the same. But the dry old flower in a booth cannot be naked. And so please sit down, you're in a storm. We'll let you down, stop thinking of you. Trees evolve, darling, in the time we walk, darling, in the time we play. We'll absolutely burn it up, darling, is the time to walk. There is not the time to sway. Or you will pay, or you will pay, or you will pay. Del rock. E allora abbiamo ascoltato anche questa canzone Thinking at the Bar. Abbiamo con noi in studio a Blu Radio Veneto, amici, ancora una volta buona serata. Abbiamo con noi The Charlestones, che arrivano da Udine e sono in quattro, e li abbiamo ascoltati, apprezzati, e nella canzone dal CD, ma anche in già un pezzo dal vivo. Tra poco sentiremo un altro brano live con Mattia Bonanni alla voce e alla chitarra. Ricordo ancora Matteo Peresson chitarra e basso, Gianmarco Crevattin alla chitarra e Federico Pellizzari alla batteria. Ok, abbiamo sentito questo pezzo, un inizio che io dicevo molto delicato, ma non era vero, e dopo si scatena. Come mai l'idea di scatenare dopo qualche secondo con un inizio così delicato, così acustico, così melodico? Ci piacciono i ritornelli. Ecco, i ritornelli devono star dentro, in testa, chiaramente. Battuti, dritti e... Beh, lui se ne intende, visto lui che fa il batterista. Come l'hai utilizzato questo pezzo? Come l'hai, come si dice, corollato? Cioè, gli hai dato un ritmo in una certa maniera oppure no? Ma sì, cioè, ci piaceva così, insomma. I ritornelli che ti rimangono in testa, insomma, devono avere un certo piglio, un certo... Così, un certo crescendo praticamente. Sì, infatti, quindi ero tutti d'accordo con gli altri, sì, praticamente. Sì, sì. Poi è una cosa che facciamo spesso, di cambiare tanto la dinamica della canzone al suo interno, cioè cominciare piano, attaccare forte, riprendere. è un giochetto che facciamo. Anche dal vivo fate queste robe allora, spesso soprattutto. Soprattutto dal vivo. Sì, sì. Sì, dal quindi, vivo. Quindi non è vero che non cambiate, qualcosa cambiate allora. Va, lo cambiamo un po' nella foga, cioè c'è la foga del... No, siamo abbastanza fedeli al disco in realtà. Cioè cerchiamo di essere fedeli al disco. Nel senso... Ecco, un po' più intensi, più chiaro. Volume magari. Beh, no? Giusto, davvero ci vuole un po' più di volume. Qua siamo in fase acustica chiaramente, sì, però sì. Anche qua, anche lui all'inizio, siamo in fase acustica, si è dato da fare il primo pezzo, perché ami particolarmente questo pezzo, il pezzo che inizia con tutti i concerti iniziate con questo pezzo. Sempre. Tutte le vostre fans. Il disco comincia con tutte le vostre fans femminili, allora sono molto attaccate a questo pezzo. Ma sì, dai, cioè, insomma, è piaciuto. Sì. Importante è questo. E ma sì, penso sia rispetto al singolo che invece cioè che ha quel tiro un po' più un andamento diverso commerciale, cioè, esattamente. No? Questo qua invece ha un tiro un po' più personale che però secondo me però se la giocano insomma alla pari. Certo, e abbiamo detto The Charlestons, perché questo nome? Beh, è dato un bel nome, insomma, suona classico, no? Come le band inglesi anni 60 così, col The davanti, insomma, suona tutto meglio, ecco, più ordinato, più... Sì, rende subito un po' l'idea di quello che puoi trovarti, credo, insomma. Cioè, leggo Charleston, penso a una chitarra acustica o a... non lo so. E... non lo so. A un Charleston. Ma insomma, no, il Charleston era il nome di un negozio e passando un giorno così ho letto sta insegna, mi piaceva come era scritto. E da lì ho detto, ah, perché no? E l'ho proposto. Non c'era l'Union Jack però dietro, eh? No, non c'era ancora l'Union Jack. Non c'era la batteria, lo rendi in inglese. No. Era una di quei. Di quelle insegne luminose, insomma, anni, non so quanti anni, ma anni 60, credo. Cioè, comunque, sì, un negozio abbastanza a caso, che vende cose a caso e in un punto caso. No, è bello. Come i nostri live, sì, succedono una cosa a caso. Mi sembra che il caso sia fondamentale nella costruzione di questa band. Perché all'inizio la prima cosa che ti abbiamo chiesto, ma com'è successo? È stato per caso, ci siamo trovati per caso insieme in classe, da lì poi per caso. Sì, è così, ed è una cosa che ci diverte un sacco alla fine, che sia tutto a caso. E vabbè, insomma, vuol dire che è quello che ci ha portato fin qua alla fine, sì, facciamo le cose a caso, però poi insomma alla fine si vede che ci riescono abbastanza bene. Vuol dire che c'è anche un po' di buona fortuna sotto. Abbiamo... sbagliato anche l'uscita dall'autostrada perché guidiamo a casa. No. A proposito che stasera siete qua da noi, ringraziamo il nostro produttore artistico che è Alberto Prisco, grazie a lui stasera siete qua, quindi fa parte della redazione chiaramente. Ecco, okay. Ricordiamo allora che se qualcuno vuole avere contatti con Blu Radio Veneto basta andare nel sito bluradioveneto.it, da lì poi c'è la possibilità di scrivere alla redazione a info e poi anche si trova Blu Radio Veneto su Facebook, quindi potete in qualche modo contattare la nostra emittente. Allora, Maurizio, che cosa vogliamo fare? È qualcosa dal vivo, a Mattia? Caso? Okay. A caso. Sempre a caso. Sì, a caso. A caso no, che cosa... Che caso cosa potrebbe essere la canzone che ho fatto... Che ho scritto pochi giorni fa. Vabbè, dai, no, ne faccio un'altra prima, poi farò a caso l'altra, sì. Sì, allora, dal vivo ti alzi in piedi stavolta, sì. Benissimo, perché prendi posizione davanti al microfono e allora andiamo a sentire questo brano, poi magari ce lo presenti, ci dici il titolo e tutto quanto. Sunset thought in the same red lights in your skin, red lights in your skin. Sun seems to be all we look like. Oh, we wash it up. Why ever the waves of your arms? I know whatever comes into your life, since you get me out, far, get me out, far. I stand, I write a line to your eyes, wishing no one. nobody fine in love, loving, dying, basking in the sun, situations overcome. I miss you now, you light those flowers in the wind. We know, oh, well, you know, oh, whatever you know, it's all that you know. The sun is running down into the sea, but it's falling asleep, it's falling asleep. My love, my only love, how could you feel all this melody, breath serenade in the wind, and basking in the sun, situations overcome. I miss you now, you light those flowers in the wind. Oh, well, you know, oh, whatever you know, it's what that you know. I'm basking in the sun, situation's overcome. I miss you now, you light those flowers in the wind. I miss the days we went through, the day with all the time to choose, in what we've done, a fancy tree, a kind of flyer upon everything. Situations overcome. I miss you now, you light those flowers in the wind. Well, you know, oh, well, you know, whatever you know, it's what that you know. Oh, oh. L'onda del rock. Blu Radio Veneto insieme a voi anche in questa serata, con una band dal vivo che ci sta accompagnando nel trascorrere il nostro tempo, nel farci sentire il loro lavoro. Sono The Charlestons con Out From The Blue e abbiamo ascoltato questa canzone dal vivo. E allora, intanto c'è un titolo? Sì, la canzone si intitola Upon The Sun. Bene. È una delle tre canzoni sopravvissute dai tempi dell'EP e che sono state scelte, insomma, per far parte anche del nuovo disco. Quindi è una vecchia conoscenza. Che è un titolo lunghissimo, alla Müller praticamente. Lo puoi ripetere il titolo dell'EP uscito nel 2009? Ah, sì, lo dico in italiano, se volete, sì. è più comprensibile. In realtà è una specie di modo di dire una cosa abbastanza stupida. Sì, un slang, se vuoi dire. Sì, è tipo non fidarti di colui che porta le bretelle, la cintura. Ho capito, perfetto. Nel caso posso dire che questa era una bella... Che brutta titolo, è uscito così praticamente. Sì, è uscito a caso. Anche un po' a caso. Sì. Un po' a caso. Sì, sì, sì, sì. Però posso dire che questo era un pezzo, una ballad secondo me. Sì, una ballad. Sì. Una ballata quasi folk in alcuni momenti. Mm-hmm. Molto schematica, scheletrica anche, possiamo dire. Scheletrica, questo. Sì. Sì. La semplicità alla fine è una cosa importante, insomma, riuscire a rendere i 10 pezzi del disco anche con una chitarra, ma alla fine è da lì che sono stati. Certo, ma bisogna sempre dire una cosa, lo ribadisco spesso: suonare in acustico è ben più difficile che non suonare in elettrico. Cosa dici, Francesco? Assolutamente. Sei tu il maestro. No, no, ma cioè, perché suonare in elettrico, Francesco, qualche volta si riesce a nascondere le cose, ma suonare in acustico no. Vale. Ma poi sì, dipende anche da come sei abituato a farlo, no? Cioè, non so, appoggiato al microfono, lontano dal microfono, in piedi in mezzo a una sala, seduto sul divano, insomma cambia un sacco le prospettive praticamente. Sì, sì, e come ti senti, è importante, sì. È molto più delicato suonare. È delicato, cioè fai vedere se sai suonare veramente suonare in acustico. Sì. In elettrico sai, sai suonare, però qualche volta con qualche strumento elettronico, qualche aggeggio, si può anche limare. Ti punti sul volume. Esattamente, cose, puoi confondere, puoi nascondere. Poi allargare, restringere, un sacco di cosette. Maurizio, strano che tu sia così a conoscenza di queste tecniche quando l'unica cosa che suona è il campanello di casa. Questo è vero, Francesco. Hai perfettamente ragione. Cioè, mi stupisci certe volte, però insomma... Qualche volta uso la chiave, spesso volentieri. Va bene. Che non è una... che la chiave di... Vabbè, non importa. Lasciamo perdere. Andiamo avanti. Abbiamo ancora una ventina di minuti da trascorrere insieme ai nostri amici e allora c'è qualcosa che vorreste dire ai vostri fan che magari vi stanno ascoltando, no? È una domanda difficilissima. Ma Matteo, forse perché il fondatore, capo e manager. Il tesoriere. No, vabbè, in realtà c'è un video in uscita e per cui le date insomma dipenderanno anche un sacco da quello. Ma Matteo, dici tu. Ma sì, no, adesso siamo tutti impazienti di aspettare l'uscita del video. Sì. Per cui consigliamo ai fan di aspettare e guardarlo poi, perché vale la pena ovviamente. Qual è la domanda che vi fanno più spesso, oltre a, penso, a quella del nome, che è una cosa insomma abbastanza banale che si fa a tutte le band, chiunque abbia insomma una band o abbia inciso un disco, insomma? Cioè, la cosa che torna di più è sicuramente il fatto del sound molto inglese, ma questo, cioè, è una cosa che non abbiamo scelto, insomma, è una cosa che è venuta così e non ci siamo seduti in una stanza a decidere di suonare in un certo modo, insomma. E Mattia, il fatto che tu ogni tanto vai in Francia, secondo te influisce questo nel suono di tutto il discorso oppure no? Nel suono, mi ha fatto conoscere insomma tante cose alla fine, andare a Parigi, perché boh, insomma noi comunque viviamo in una zona abbastanza decentrata, diciamo. Decentrate, sì, le cose sì. faticano ad arrivare. E il fatto di uscire così, di passare del tempo a Parigi alla fine, che è comunque una città all'avanguardia, anche per la musica. Sì, si suona molto. No, io non ci sono mai stato, quindi... Sì, ultimamente un sacco, ma comunque già all'epoca, insomma, era tutta un'altra cosa rispetto ai posti da cui arrivavo, insomma. Alla fine ha influito tantissimo su di me, sì. Cioè, anche se cioè, sono arrivato ad ascoltare questo tipo di musica da solo, insomma. Poi però il fatto di poterla vivere all'estero, così a Parigi, quindi è genetico, quindi è caos. È il caso. Non so dove andare, non so come stare, stasera dormiremo in un albergo, domani non so dove dormiremo. Tra 40 anni non so se avremo la pensione, ma forse l'Empire se la pagherà. quello è un'altra cosa, però. Sì. Citiamo un momento Davide Croatto e Davide Massussi, che hanno collaborato, hanno mixato, hanno fatto un lavoro incredibile sul disco. Sì. Beh, ci abbiamo passato un sacco di tempo assieme, alla fine, almeno un mese e mezzo in simbiosi, perché alla fine ti svegli alle 6:30 del mattino, sei in studio alle 8 ed esci alle 8 di sera. Per cui è stato una giornata intera. Sì, è stato parecchio divertente. Insomma, poi alla fine ci siamo divertiti, al di là delle discordie che possono esserci su un riff o no? Su un riff o no? Certo. E poi il però, disco... è stato divertente. Sì. Quindi è stato fatto in Friuli, praticamente a Udine. Sì, sì, però sì. È stato portato per il mixaggio anche a Chicago, negli Stati Uniti. Come sì. Mai questo? Perché hanno questo contatto con questo Carl Saff. Esatto, sì, che è uno di Saff, sì, un americano. Che, beh, insomma, ha una buona reputazione per quanto riguarda i master. Quindi l'hanno masterizzato là. L'hanno masterizzato là, sì. E secondo voi c'è stata differenza tra il mixaggio e i master? Sì. Sì, cioè sì, sacco, notevole, sì. Sì, notevole. Sì, sì. Quindi... Ma stavolta molto di meno rispetto alle piste, secondo me. Ma probabilmente perché cioè dal momento in cui una cosa è molto più pensata dietro e molto è fatta meglio dal principio, poi alla fine è già a un certo livello. Si è già progettata per sì. Un determinato risultato. Il master risultato. Poi chiaro aggiunge volume, aggiunge però la canzone, se è buona anche nel mixaggio. E noi lo sappiamo, dato che insomma un mucchio di live li registriamo eppure vengono anche bene, quindi vero Maurizio? Certo, no? Certo Francesco. Ecco, adesso però andiamo avanti, perché insomma se abbiamo anche la possibilità di far ascoltare una canzone in più, io dico che è meglio così. Quindi farei ascoltare il prossimo brano dal disco, che si intitola Good Times. Good Times, sì. Quindi un buon tempo da trascorrere insieme a Blu Radio Veneto, da trascorrere assieme a The Charleston. La traccia è tratta dal vostro album che si intitola Out from the Blue. Rockway, l'onda del rock. E allora abbiamo ascoltato anche questo brano che ricordo è la traccia numero 6 dell'album dal titolo Good Times, con noi a Blu Radio Veneto questa sera e The Charleston. Maurizio. Sì, volevo parlare proprio col batterista mentre il pezzo andava. Ci sono un sacco di stop and go in questo pezzo. Non è a caso, qualcosa hai costruito, non era proprio a caso. Sì, sì, no, c'è anche caratteristica un po', no, di questa canzone che forse è un po' diversa dalle altre, sì, anche per quanto riguarda il live, no? Sì. Cioè la suoniamo, di solito questa qua, chiudiamo i concerti con questa canzone qua, no? È quella con cui facciamo un po' più casino magari, un po', e che rispecchia anche, cioè un altro tipo, no? Di suono praticamente. Di suono forse. Un po' sì, più avanzato, un po'. No, un po' più. Un po' più ruvido. Un po' più ruvido, un po' più, più potente praticamente, leggermente diverso. Infatti. E lo allargate, cioè ti danno più tempo di rullare con la batteria oppure ti danno determinati tempi i tuoi colleghi più vicino? No, c'è sempre un riferimento che sì, insomma, che va rispettato per... Ok, sì, abbiamo detto che va rispettato, sì, il brano, però c'è sì, qualche possibilità. Sì, forse essere... il pezzo in cui si è, sì, si è espresso meglio, ecco, anche non mi ricordo nelle sessioni di registrazione. Ti è venuto meglio era quello che amava di più, gli hanno detto bravo. Vedi, sì, sì, no, è più, cioè, ci si può lavorare più di fantasia forse. Ecco, no? Esatto, c'è cioè, meno possibilità di non, sì, ci può, come si dice, soppassare il palletto, andare oltre praticamente. Sì, poi è un po' più quadrata, no? Come canzone, un po' meno articolata come le altre, con meno cambi di, cioè non so se ci siano i cambi, però è abbastanza semplice, no? Come struttura, per cui ritorna e non so, probabilmente era una canzone più così diretta, spontanea. Esattamente, poi una cosa fondamentale che su tutti i pezzi che voi avete sentito immediatamente, non è che sia proprio costruito, proprio di getto, quasi di getto, o quasi praticamente. Poi sta qua in particolare nel disco, cioè sta qua è stata praticamente la penultima che abbiamo scritto prima di registrare, ma qualche giorno prima abbiamo scritto, beh, no, qualche tempo prima, qualche settimana, sì, prima, ma però non tanto praticamente, no, e quindi cioè, no, il limite è un po' del, ma così no, cioè nel senso è giusto che abbiamo avuto poco tempo per suonarla, ah, ho capito, perché ho capito. Poi comunque suonando le canzoni, facendo un sacco di prove o comunque provando a suonarle in giro, ti rendi conto, no, è un po', la canzone cambia col tempo e assume la forma poi definitiva alla fine, che riproponi sempre perché ci sei arrivato insomma dopo un po' di tempo lì. Era tutto abbastanza fresco, no? Ma perché alla fine dovevamo far così, cioè avevamo delle canzoni, dovevamo registrarle, non avevamo avuto tempo di testarle, non le suonavamo da anni e quindi è stato tutto così, cioè il disco è venuto fuori di getto per quello, perché abbiamo avuto veramente poco tempo per provare le cose, noi le abbiamo fatte, scritte e registrate. Ma è venuto e fuori? Poi siamo andati a suonarle. È venuto fuori bene, Francesco, cosa dici? Assolutamente, e adesso sono anche curioso di sentire l'altro pezzo dal vivo, che è poi l'ultimo. Intanto vi chiedo anche di pensare a quale altra canzone farci sentire dal CD per potrei chiudere. Farla da seduto, ma vorrei tipo... faccio la canzone a caso, quella scritta pochi giorni fa, ma sì, posso farla da seduto? Puoi farla da seduto, ma allora abbassiamo il microfono, che è meglio. Allora diamo il tempo di organizzarci. Okay. Oh, molto bene, così dovrebbe andare abbastanza bene. Tu mettiti dritto davanti al microfono, bene. Ecco, allora dopo ci dici che cosa ci hai fatto sentire, insomma. Ok, va bene. Plastic cover of bone that we old man chose. When you smile, I think you've got a smile. Singing and all the moving fuss and all what you can drive. But don't be sad over the bus, just gonna check you up for to make you sin. You try all your smile, singing, always moving. and falls, and all what you can drive. But don't be sad over to both, just gonna take you up for to make you sing, you try. All your dependence has been what I want, and just been what I need. Over to both, just gonna take you up for to make you sing, you try. All your dependence has been what I want, and be what I feel, you try. Over to both, I sing, and then all your troubles you forgive me, but I don't know where you want. Rockway, l'onda del rock. Sì, sì, sì. Allora, un attimo che vi alzo gli altri microfoni, perché sennò non riusciamo a... Eccolo qua, ecco, ci siamo tutti. Ho ripristinato le cose. In diretta abbiamo sentito quindi quest'altra canzone. Mattia, dici un po'. Che è un'anteprima assoluta, sì. Esiste da, non so, 48 ore, credo. Un po' di più, forse, per cui boh, era... tutto abbastanza improvvisato. No, no, beh, è bella, eh? A me è piaciuta. Sì, bella, scalettica come si conviene, proprio chitarra e voce. Poi è un onore per noi di Rock, sì, Wave, poi... è la prima prima volta che la fate ascoltare, quindi la fate ascoltare qua, è già positivo, assolutamente. Ecco, questa dobbiamo capirla un po', ma cioè, insomma, abbiamo cominciato a farla e... L'hai fatto già sentire a loro, chiaramente? Sì, sì, sì. No, sì. Abbiamo fatto anche prove. Avete fatto una prova? Sì, sì, ieri sera abbiamo... Avete provato? Abbiamo provato un po', sì. Quindi, beh, sarà nel prossimo album oppure no? Cosa dici? Sì, non si sa mai, eh. Per qualche pezzo avete già pronto nel cassetto, sì, lasciato da parte per motivi diversi. Qualcosa sì, avevamo dei pezzi già scartati anche... Sì. All'epoca, sì. Ecco, se andate a suonare in giro... praticamente avete cosa? Una quindicina di pezzi a disposizione? Anche di più. Anche di più. Ma sì, poi dipende, insomma, dalla scaletta. Cioè, di solito nei locali dove suoniamo vogliono dei live abbastanza intensi e brevi, per cui stiamo sempre sotto l'ora. Ah. Facciamo 10 pezzi, poi siamo accompagnati sempre da una band, in teoria, che suona prima di noi un'altra mezz'oretta. E poi ci sono i DJ set, perché la gente vuole anche ballare. Sì, beh, è ovvio. Però, insomma, fate anche cover? Sì, facciamo una cover, sì. Di? Degli Oasis. Degli Oasis. Era giusto che sia stato così. Visto che adesso gli Oasis con un altro nome sono rientrati alla grande nelle classifiche, sia anche quelle italiane, sia quelle inglesi. Questa settimana... mi pare che siano il 10° o 12° posto, quindi con il nuovo nome, i fratelli si sono divisi, però la sostanza è sempre quella. Non cambia niente. Sì, sì. Sono stati. Sì, siamo stati a vederli. Sei stati a vederli? A Milano, sì. Cosa ne dici? È stato grandioso, insomma. Ma col nuovo nome, praticamente. Sì, sì. Ma non si sente la mancanza. Esattamente, di là, dell'altro. No. Sono addirittura meglio. Sono addirittura meglio. Sì, più aggressivo, più. Io ho sentito il singolo, è decisamente Oasis al 100%. Sì, sì, sì. Solo per motivi legali e basta, il resto non cambia. Sì, ma sì, hanno imparato dal maestro, insomma, poi adesso è chiaro. Sono d'accordo che hanno imparato. Ha sfornato tutto quello che aveva. E certo. Loro adesso sono freschi, a 40 anni di poter fare delle canzoni nuove. Lo so. Hanno covato 10 anni i loro pezzi e adesso sono usciti. Ma io sono dalla parte contraria. Ma sì, sono pareri abbastanza contrastanti su questa nuova band. Sì, sì. Beh, una volta c'erano i Blur, gli Oasis, i Blur erano i Beatles, gli Oasis erano i Rolling Stones, viceversa. Poi le cose sono cambiate e sono rimasti solo gli Oasis. E i Blur sono con un altro nome, il leader dei Blur ne ha fatti di tutti i colori, musicalmente parlando. Un sacco di progetti. Esattamente. Sì. Ok. Ecco, siamo arrivati praticamente al momento dei saluti, perché abbiamo il tempo di far sentire un'altra canzone. Okay. Dal disco. Dal disco, ok. Sì, o vuoi farla, dal vivo. Vuoi farla dal vivo? Dal disco, come volete. Mettiamo... c'era una canzone in rotazione, no? In classifica. Sì, sì. Possiamo mettere quella lì, o se no la fa... Sì, dai, ascoltiamola. Ascoltiamo Living Back the Sun, allora. Living Back the Sun, che è la traccia numero 3. E allora, prima di salutarvi, ricordo agli amici di Blu Radio Veneto che abbiamo avuto questa sera con noi la possibilità, insomma, di conoscere meglio The Charlestons direttamente da Udine con questo loro album Out from the Blue. Ricordo, la casa editrice è la Moscow, quindi trovate segnalazioni anche nel sito www.moscowlove.it. Ringrazio Mattia Bonani alla voce e alla chitarra, Matteo Peresson, Gianmarco Crevatine e Federico Pellizzari per essere stati con noi, per essere venuti a trovarci a Blu Radio Veneto. Grazie, Maurizio, a voi. Grazie a voi. Un piacere. Grazie. Maurizio, vuoi dire, vuoi mettere l'ultima perla, dire qualcosa di intelligente per salutarci? Devo solo dire che questo è un disco molto bello, si sente molto facilmente, accattivante, da ascoltare assolutamente. E comprare. E comprare, assolutamente. Comprare, è vero. Ok, grazie. Beh, Maurizio. Ecco, a proposito di comprare, lo si trova distribuito? Ma sì, ai nostri concerti ce n'è sempre, e altrimenti su iTunes si può scaricare. Oppure sul sito dell'etichetta anche sì. Si trova. Sul sito dell'etichetta, va bene, va bene. Allora, grazie ancora una volta, buona grazie serata, grazie Charleston. Salutiamo tutti gli amici di Blu Radio Veneto, questa è la loro canzone che vi presento, Living Back the Sun. Rockwave, l'onda del rock.